parte. Alla mattina alle tre, fumi c'è bombe in spalla, vai miniera, suda. Suda l'usuli, fucenti, rumpe a montagna, cagna, e metti le mine, le micce, le bombe e grida, attenzione le bombe. Si sfracina, suda suli, cucenti, rumpe a montagna, cagna, e metti le mini, le micce, le bombe e grida, attenzione le bombe. Ma la montagna è forte, è qualche giorno amaro, a casa chiusa.